Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Le 7 e 19 minuti, un saluto da Gigi Donelli, benvenuto a questo appuntamento con la rassegna stampa di Radio 24. Staremo insieme fino a pochi minuti prima delle 8 per naturalmente portarvi agli aggiornamenti di GR24. Vediamo allora in questi primissimi minuti quali sono i titoli, le aperture scelte oggi dai quotidiani in edicola. Partiamo da Repubblica: crisi, allarme UE per l'Italia, l'ultimo crack USA fa tremare le banche, le borse con il fiato sospeso, e naturalmente vi daremo tutte le aperture e gli aggiornamenti, come avete già sentito, per le borse asiatiche. Domani la pagella di Bruxelles, detassare redditi bassi, il caso Madoff dunque a proposito di borse col fiato sospeso. Interviene la Consob, la Santander esposta per 2,3 miliardi, quindi la crisi economica in apertura oggi su Repubblica, mentre nel taglio centrale una fotografia ricorrente che ha già fatto il giro del mondo virtuale in versione filmato. Mi riferisco alle scarpate contro Bush in Iraq, la visita a Baghdad, la guerra non è finita. Avete sentito poi che dopo la visita a sorpresa di Bush in Iraq è stata questa visita, è stata seguita da un'altrettanto sorprendente visita in Afghanistan, di cui vi daremo conto appunto nel corso della mattinata. E ancora nella pagina d'apertura il tema dell'età pensionabile delle donne e la proposta Brunetta. Vogliono donne angeli del focolare sulle pensioni, io non mi fermo, dice il ministro Brunetta. Tra un po' sentiremo alcuni passaggi di una intervista, in realtà oggi ne troviamo almeno un paio sulle pagine dei quotidiani, delle interviste del ministro Brunetta che spiega il suo progetto. Il Corriere della Sera parla di giustizia, apre sulla giustizia. Berlusconi frena Bossi, tentativo di dialogo dopo l'intervento del leader del Carroccio, premier freddo. Nel taglio centrale, oltre alla vignetta di Giannelli sulle donne in pensione a 65 anni, in cui si vede la Bonino che di fatto porta il ministro Brunetta verso la scuola o l'asilo, lei dice purché funzioni l'asilo, e da qui il riferimento alla polemica, al dibattito di queste ore circa appunto la possibilità che l'età pensionabile delle donne sia portata a 65 anni, ma al grande tema dei servizi che di fatto costringe molte donne a un doppio lavoro, appunto sul posto di lavoro e in casa. Nel taglio centrale invece una fotonotizia che registra una macabra festa, quella che è stata inscenata a Gaza, dove Hamas ha celebrato i suoi 21 anni, e in scena appunto il rapimento del soldato israeliano Gilad Shalit, un palestinese infatti nel ruolo dell'israeliano rapito, in una piazza festosa in cui si celebra un atto di morte. Naturalmente Bush anche in prima pagina del Corriere: Bush sorpresa in Iraq, la guerra non è finita, il reporter gli lancia le scarpe. La Stampa di Torino oggi apre sulla crisi, più fondi alla cassa, aumentano i soldi per gli ammortizzatori sociali, interventi per mutui e tariffe, giustizia, sponda leghista al centro-sinistra. Domani l'incontro Tremonti-Bersani presenterà il piano del PD per affrontare appunto la crisi. Veltroni: anche l'Italia aiuti l'auto, e anche in questo caso qui addirittura viene proprio colto il momento del lancio, due scarpe per Bush che anticipano il commento di Vittorio Emanuele Parsi, che poi leggeremo insieme, un commento che diciamo supera la contingenza di questo momento e di questo lancio per ragionare sui nuovi equilibri. Il titolo è Quella strada Pechino-Kabul, quindi come vedete, come sentite, si va già oltre. Il Sole 24 Ore, il Sole del lunedì: pensione, riparte la corsa, si parla di previdenza, dal 1 gennaio uscita per anzianità e vecchiaia bloccate quest'anno, tra IMSS e INPDAP previsti nel 2009 circa 800.000 nuovi assegni, l'8% in più del 2008. Poi un interessantissimo approfondimento sull'ambiente, ma sui rumori, insomma chi vive nelle città e non solo sa benissimo che quanto può essere diverso proprio la qualità della vita, secondo il fatto che si sia in una situazione di rumore sostenibile o piuttosto invece si sia costretti a fare i conti con l'aggressione sonora che può essere derivata da molti fattori. Bene, questo speciale sul lungo cammino alla lotta all'inquinamento acustico è oggi nelle pagine del Sole 24 Ore del lunedì. Il Messaggero invece insiste sul tema del maltempo. Maltempo è nuova allerta, neve, pioggia al nord, disagi sulle strade, frane e danni al sud. Roma, previsto oggi un altro nubifragio. Consolari ed Aniene, sorvegliati speciali. Infatti il Tevere sta tornando progressivamente sotto il livello di guardia, ma l'annunciata perturbazione che ha investito il nord con nevicate abbondanti soprattutto in Piemonte. Non sono mancati i disagi, scrive il Messaggero, alla circolazione stradale, oltre che per la neve anche per gli allagamenti, frane e pericolo valanga. A Roma sono scesi in campo i Consubim, quindi gli incursori della Marina. Con due esplosioni controllate hanno fatto saltare parte di uno dei battelli che si era appoggiato sulle arcate di Ponte Sant'Angelo, sul Tevere, dividendolo in tre tronconi che sono stati poi assicurati alla banchina. In questo modo è stato agevolato il normale deflusso delle acque anche in vista del nuovo segnale di allerta. Nella parte centrale invece il Messaggero evoca il campionato di calcio, Roma rabbia e classe, la quinta vittoria di fila, c'è un Totti che festeggia il primo gol al Cagliari, battuto poi 3-2 e naturalmente cita anche la vittoria della Juventus nel posticipo con il Milan e il titolo ricorrente è dunque la Juve, l'anti-Inter. Vediamo qualche altra apertura per il Giornale. È ora che i circoli Arci paghino le tasse, discoteche, ristoranti, palestre, sauna e persino locali hard spacciati per centri culturali, tutto al netto delle imposte. Il fisco perde 1 miliardo e la concorrenza sleale fa infuriare i commercianti. Il governo promette adesso controlli più severi. Il commento nella prima pagina è questione morale pure al nightclub di Mario Cervi, che appunto accusa il meccanismo dei circoli e invoca una trasformazione proprio dei privilegi fiscali riconosciuti alle associazioni. Nel taglio centrale ancora Brunetta, ancora l'unità invece è grazie Europa, in Italia è la RU486 dall'Agenzia del Farmaco, pronto il sì alla pillola abortiva già adottata in Europa, protestano destra e Vaticano. Il grazie Europa è di fatto una grande vignetta pronunciata da Bibi, la compagna di Bobo, appunto nella vignette di Staino. Per ora ci fermiamo qui, sentiamo gli aggiornamenti da GR24, poi invece andiamo ad approfondire alcuni articoli. È la stampa bellezza, la stampa. Minuti, rieccoci ancora in diretta, ancora un saluto questa mattina da Gigi Donelli. Lunedì 15 dicembre abbiamo visto aperture diverse sui quotidiani e oggi in edicola. Ripartiamo allora da un tema che è stato affrontato e discusso anche nel weekend, cioè la proposta Brunetta sulle pensioni. La donna quando arriva alla pensione ha fatto il doppio del lavoro, ricorda una italiana acquisita ma credo cara a molti, mi riferisco a Josefa Idem, grande campionessa olimpica, e lo spiega, dice, perché la giornata di una donna dura 16 ore e dunque va bene, si intervenga allora però anche sugli asili nido, non si tagli il tempo pieno a scuola, non si chiede alle donne di fare sempre l'acrobata. Questa appunto Josefa Idem, 44 anni e molti ori olimpici, sicuramente una donna che è, come dire, un esempio assolutamente anche eccezionale visto i risultati sportivi, di come si possa compenetrare il ruolo femminile e il ruolo professionale, però appunto con una serie di interventi, e questo lo leggiamo oggi sotto l'articolo Donne staccanoviste, arriva un coro di sì. Tra il coro di sì c'è anche quello di Margherita Hack, 86 anni, favorevole all'idea di Brunetta, dice bisognerebbe introdurre questa possibilità però in modo flessibile, dice la scienziata, lasciando la possibilità di lavorare a chi ha bisogno di soldi. Andare in pensione a 60 anni può essere una perdita economica e ci sono tante persone che lasciano il posto di lavoro con molto dispiacere. Insomma, la possibilità sì, nessuna opposizione di principio, ma come spiega in qualche modo una portavoce eccellente dei diritti delle donne, Emma Bonino, anche salari e carriere vanno equiparate. A questo proposito ci segnala il quotidiano milanese come solo in 4 paesi sviluppati prevedono età diverse. Sono Italia, Messico, Polonia e Svizzera, i paesi dell'area OCSE, che prevedono età pensionabili diverse per uomini e donne. Il dato emerge proprio da un rapporto, appunto, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 2007, che sottolinea che in diverse realtà del mondo è in corso un processo di parificazione in questo senso. A questo proposito, bocciature e commenti positivi sono trasversali a entrambi gli schieramenti, scrive Giacomo Ferrari sul Corriere questa mattina. Con Brunetta si schierano il vice capogruppo di PDL alla Camera Italo Bocchino, Daniele Capezzone, Giovanardi della Vedova. Critiche invece da altre donne di destra, a partire da Giorgia Meloni, ma anche da Alessandra Mussolini e Daniela Santanchè, che accusano il governo di fare cassa sulla pelle delle donne. Brunetta dunque tira dritto. Al leghista Calderoli, che per primo aveva criticato l'idea, consiglia di studiare il dossier e annuncia che sull'argomento ci sarà un'informativa. Due interviste oggi a Brunetta, ne citiamo un paio di passaggi, da quella di Repubblica realizzata da Roberto Mania e quelli a proposito dei conservatori e di chi Brunetta ritiene di veri conservatori, che sono secondo lui quelli di sinistra. Dice: abbiano il coraggio di dire chiaramente che per loro la donna deve essere l'angelo del focolare, che deve curare i genitori anziani o i nipotini. Loro vogliono la donna sandwich, dice il ministro Brunetta, schiacciata da una parte da un lavoro nel quale non può fare carriera e guadagna meno degli uomini, e dall'altra dalle cure familiari. Lo dica Epifani, che non legge i dossier, non studia, non si informa. Sia onesto, insomma, il tasto dei dossier è ricorrente. Chiede l'intervistatore: cosa c'entra questo con la sentenza della Corte, che di fatto ha attivato questo meccanismo? La sentenza non condanna l'Italia per il suo regime pensionistico, cosa che non potrebbe fare, non essendo il welfare di sua competenza. Siamo stati condannati perché l'anticipazione dell'età pensionabile delle donne determina una discriminazione. La pensione, infatti, viene calcolata sulla base degli anni di servizio prestati e in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico, costringendo le donne ad andare in pensione 5 anni prima degli uomini. Le si condanna di fatto a percepire una pensione inferiore. Conclude Brunetta: questa sentenza offre all'Italia l'opportunità di riflettere sulle proprie follie. Occorrerebbe rimettere mano nei modi, nelle forme possibili, attraverso il dialogo con gli attori sociali e, in ragione della crisi economica in atto, all'intera architettura del welfare, perché noi spendiamo troppo per le pensioni e troppo poco per il lavoro. Bene, queste alcune riflessioni di questa mattina. Io vi ricordo, tra l'altro, che alle 8.30 all'interno di Dietro la Notizia torneremo ad affrontare questo tema. Ospite del direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, l'economista Elsa Fornero, e quello sarà anche il momento in cui, attraverso l'800 24 00 24, voi ascoltatori potrete dire la vostra e condividere appunto le riflessioni su questo tema. Bene, abbiamo visto che un altro tema che campeggia oggi sulle pagine dei quotidiani, anzi in realtà è una fotografia, è quella appunto del lancio delle scarpe che un reporter iracheno ha indirizzato verso il presidente degli Stati Uniti a Baghdad. Ma il tema più ampio, naturalmente, è quella della politica americana di Bush e soprattutto di quella che sarà del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ecco, in questi giorni, mentre Bush completa la sua carriera presidenziale visitando a sorpresa Iraq e Afghanistan, sono anche i giorni di un rapporto shock che è stato presentato ieri mattina sull'edizione domenicale del New York Times e riguarda la ricostruzione in Iraq. Dunque un dossier governativo, peraltro quindi un dossier prodotto dall'interno da una commissione a guida repubblicana. Oggi il Corriere della Sera ne riporta ampi stralci, possiamo leggere alcuni passaggi. Si tratta, dice il quotidiano, di un atto di accusa di una commissione guidata da un repubblicano. Il numero dei poliziotti addestrati, per esempio, era letteralmente inventati. Insomma, più di 100 miliardi di dollari per nulla o quasi. 5 anni dopo il più grande progetto di ricostruzione dai tempi del piano Marshall, che appunto ricostruì l'Europa post-bellica, gli Stati Uniti non hanno in Iraq né le politiche né la capacità tecnica né la struttura organizzativa che sarebbero necessarie per imbarcarsi con qualche chance di successo in un programma così ambizioso. l'ostilità del Dipartimento della Difesa guidato da Donald Rumsfeld, mai veramente interessato all'idea di dover ricostruire il paese, è all'origine di un fallimento scandito dal caos burocratico, scrive Paolo Valentino. A constatarlo con pignoleria e freddezza, e questo è importante sottolinearlo, non è una fonte diciamo esterna, ma è il rapporto di 513 pagine redatto dall'Ufficio dell'Ispettore Generale per la Ricostruzione in Iraq, un'agenzia federale guidata dall'avvocato repubblicano Stuart Bowen. Circolato in forma di bozze nella comunità degli esperti e tra gli altri funzionari dell'amministrazione, è il primo studio ufficiale del governo americano sulla ricostruzione in Mesopotamia. Ecco, il passaggio sui falsi livelli, cioè i numeri inventati letteralmente sulle forze di sicurezza, è quello più clamoroso. L'ex segretario di Stato, il generale Colin Powell, lo rivela e conferma la circostanza agli ispettori nel corso dell'audizione. Mesi dopo l'invasione, racconta Powell, il Pentagono cominciò a inventarsi i numeri. Li aumentavano di 20.000 unità alla settimana, ora ne abbiamo 80.000, ora 100, ora 120.000. Le sue dichiarazioni sono state confermate dal generale Riccardo Sanchez. Certo, sembra strano che ci sia addirittura bisogno di una conferma da parte di un segretario di Stato, che poi, come ricordate, fu il protagonista, anche se poi ampiamente pentito di quell'intervento, di quel momento chiave nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite circa la presenza delle armi di distruzione di massa in Iraq. Ma insomma, oggi Powell ha completamente un altro atteggiamento anche rispetto all'amministrazione e al ruolo che ha svolto. La sostanza delle conclusioni di Bowen, quindi di questo rapporto, è devastante. Alla metà del 2008 117 miliardi di dollari sono stati spesi nella costruzione dell'Iraq, compresi 50 miliardi direttamente dalle tasche dei contribuenti americani. Ma un simile volume di risorse è servito appena a riparare i danni compiuti durante l'invasione e i saccheggi che ne seguirono. Non solo il finanziamento dei progetti si è dipanato all'insegna di un sistema di clientela e corruzione gestito dai politici locali e dai capi tribali. Il nostro presidente del consiglio di distretto in Iraq è il Tony Soprano di Rashid, dice un diplomatico americano. Beh, il Tony Soprano probabilmente anche chi non segue molto i serial televisivi lo può immaginare, è appunto un esponente della famiglia mafiosa italo-americana dei Soprani. Rashid è un quartiere di Baghdad, quindi insomma l'insieme è abbastanza devastante. A questo proposito vi segnalo un interessante un commento, l'ultimo atto del mancato liberatore in prima pagina di Repubblica di Vittorio Zucconi. Zucconi è estremamente critico, dice: la segretezza del viaggio, si riferisce a Bush, gli ha risparmiato attentati, ma ha detto quanto immaginaria sia la vittoria, con un gesto di disprezzo che a memoria di presidente nessun capo di Stato americano aveva mai dovuto incassare. Un gesto di disprezzo, cioè quello delle scarpe che vengono lanciate contro di lui, che verrà visto e rivisto all'infinito, soprattutto in quel mondo arabo che Bush e i suoi apostoli neocon avrebbero dovuto convertire ai valori occidentali. Però più che diciamo le riflessioni sulla politica e sui fallimenti della politica di Bush in Iraq e in altre zone del mondo, peraltro confutate in altre interviste, c'è chi appunto sostiene che invece una pacificazione reale si sia compiuta, volevo segnalarvi invece una riflessione che trovate oggi sulla Stampa a cura di Vittorio Emanuele Parsi, quella strada Pechino Kabul. Nei giorni della sua visita romana, il generale Petraeus ha ribadito ciò che il presidente eletto Barack Obama non si è mai stancato di ripetere in campagna elettorale. Per cercare di vincere in Afghanistan servono più truppe, una politica orientata a dividere il fronte talebano e un aiuto meno timido e ambiguo da parte del Pakistan. Ritengo più interessante perché appunto qui si apre la riflessione su quello che potrebbe essere, su quella che potrebbe essere la politica estera della nuova presidenza degli Stati Uniti. Quindi ottenere un maggiore e migliore coinvolgimento del Pakistan è essenziale. Il Pakistan, come ricorderete, è al centro ciclicamente delle accuse più pesanti da parte dei suoi alleati occidentali, accuse che si sostanziano nell'essere di fatto i sostenitori occulti attraverso i movimenti radicali islamici, dei movimenti estremisti appunto islamici e talebani in particolare. Quindi il Pakistan svolge un ruolo chiave. La capacità americana di convincere i pakistani che la pacificazione del fronte afghano non farà venire meno l'attenzione che Washington continuerà a riservare a Islamabad è dunque essenziale, scrive Parsi. Benché ciò non venga esplicitamente dichiarato, una delle preoccupazioni pakistane è che quando l'Afghanistan venisse sostanzialmente pacificato, nulla tratterrebbe Washington da stringere ulteriormente i suoi legami con l'India, politica che gli americani stanno attuando da alcuni anni in funzione di contenimento della Cina. Insomma, il Great Game con tutti i suoi attori schierati, la Cina, l'India, il Pakistan, l'Afghanistan che, come spesso accade, non solo adesso ma nella storia, di fatto svolge il ruolo del teatro dove si confrontano altri interessi e altri poteri. Pochi giorni fa gli attentati a Mumbai e l'immediata accusa da parte indiana nei confronti del neo democratico eletto pakistano. Ora la situazione sembra un po' contenuta grazie a un preciso intervento anche degli Stati Uniti con il supporto cinese. Allora cosa potrebbe accadere? I cinesi, spiega Parsi, dal canto loro, pur aspirando a neutralizzare le mosse americane, devono cercare di riavvicinarsi all'India senza perdere il favore dei propri tradizionali alleati pakistani. Si tratta di un vero e proprio rompicapo strategico dal quale è possibile uscire solo a condizione di una revisione radicale dell'approccio americano alla sicurezza dell'Asia e del ruolo che la Cina può svolgere rispetto a questo obiettivo. Considerare la Cina un partner per la sicurezza asiatica e non un futuro possibile rivale per la leadership globale, questo è l'audace passaggio che Obama dovrebbe risolversi a compiere. Così scrive Vittorio Emanuele Parsi oggi sulle pagine della Stampa. Intanto noi, sono le 7.45, andiamo a sentire qual è la situazione invece sulle strade italiane. Stampa dell'Est, la stampa. 7.47 minuti, bene, grazie per gli aggiornamenti sul traffico. A proposito di traffico, prima di proseguire con altre segnalazioni, vi volevo riprendere una notizia che oggi campeggia in prima pagina del Secolo XIX. Se siete dalle parti di Genova, in particolare di Voltri, beh, guardate verso il mare perché avete l'occasione di vedere uno di quei colossi che è appunto una delle più grandi navi commerciali in circolazione. Oggi è in prima pagina appunto del quotidiano genovese, si tratta della Maersk Surabaya, è lungo tre volte un campo da calcio, largo poco meno, il suo timone, spiega il quotidiano, ha la grandezza di un autobus e il motore è mille volte quello più potente di un'auto. Bene, questo è proprio la nave carica di regali natalizi, la dimensione che Maersk dedicherà, quindi questa compagnia di transshipping, per le nuove rotte, il potenziamento delle nuove, antichissime peraltro, rotte tra l'Estremo Oriente e l'Italia attraverso il porto di Genova. Ecco, questa è la prima volta che arriva questo colosso nello scalo ligure e quindi se siete da quelle parti avrete sicuramente modo di vederla, anche perché, scrivono i colleghi liguri, è addobbata in veste natalizia, quindi non dovrebbe essere difficile scorgerla nonostante il brutto tempo. Bene, vediamo altri temi. Abbiamo parlato della RU486 che è presente come tema, come notizia su tutti i quotidiani, mentre per l'Unità è l'apertura, è oggi la prima pagina. Allora, l'arrivo della pillola, leggiamo dal Messaggero, fa riesplodere la polemica etico-politica. Il cardinale Javier Lozano Barragán, ministro della Sanità in Vaticano, ricorda che l'aborto è sempre aborto, sia se fatto in clinica o in casa. Il porporato, non intendendo entrare nel merito della legislazione italiana, dice che questa pillola non è neppure un farmaco innocente per la salute delle donne. Poi aggiunge: comprensione per le ragazze incinte che loro malgrado vivono un dramma, dice, ma ci sono drammi e drammi, non c'è dramma peggiore della morte. Contrari e favorevoli naturalmente si schierano. In questo secondo senso invece leggiamo l'intervista che proprio all'interno a pagina 5 dell'Unità Federica Fantozzi ha realizzato a Silvio Viale, il ginecologo che ha avviato la sperimentazione della RU486, dice, una guerriglia per bloccarla ma non ci riusciranno. Entro questa mattina l'AIFA, deciderà, pardon, entro questa settimana è previsto per il 19 la decisione, l'AIFA, quindi l'agenzia per il farmaco, deciderà se autorizzare o meno la pillola. Previsioni, la decisione, dice Viale, sarà quasi una presa d'atto. La commissione tecnico-scientifica dell'agenzia ha già dato parere favorevole in sede europea. Ormai siamo alla fine della procedura di mutuo riconoscimento. Lo ritiene così scontato? Chiede la collega. Le pressioni politiche sono forti. Guardi, risponde il ginecologo, se l'Italia dovesse dare parere negativo ne conseguirebbe un arbitrato europeo, cioè nella stessa sede in cui il nostro paese aveva già dato il suo parere positivo nel 2007. Sarebbe un totale cambio di rotta, un eventuale no dell'AIFA per pressioni politiche ci esporrebbe insomma una figuraccia internazionale. E ancora, nel 2007 però c'era il governo al centro-sinistra, oggi centro-destra, e il medico dice non darei molto peso a questo aspetto. Nel 99, con D'Alema al governo, la ditta francese produttrice non chiese la registrazione in Italia per il timore delle polemiche. Il fatto che l'anno scorso ci fosse Prodi è casuale, si tratta di una normale evoluzione di un farmaco. Vediamo, abbiamo ancora tre minuti, volevo segnalarvi almeno due letture se avrete modo. Da una parte Andrea Rossi e Raffaele Zanotti, oggi a Torino parte la cassa, la gelata dell'economia ferma 10.000 operai, rientro al lavoro è previsto a metà gennaio. Questo nonostante appunto i numeri positivi e la complessiva situazione di solidità dell'azienda torinese, il sindaco Chiamparino dice attenzione a drammatizzare, la Fiat è solida e supererà il momento difficile. Che cosa sta accadendo? Oggi l'azienda, parla un operaio della Fiat, dice l'azienda dice ci farà rientrare il 12 gennaio, la situazione è quella che è e mi sto preparando al peggio, racconta Antonio Alfiero, 21 anni di Fiat alle spalle, è uno degli oltre 10.000 operai torinesi che oggi rimarranno a casa per colpa della crisi. Ci sono le carrozzerie di Mirafiore e tutto il resto, da Powertrain Stura, New Holland, da Ergom a Magneti Marelli. I conti del Lingotto sono buoni, solidi rispetto a concorrenti come GM o Volkswagen, più traballanti. A guidare il gruppo torinese c'è Sergio Marchionne, un manager che fa gola più di un concorrente, eppure la Fiat ha deciso il blocco dei suoi stabilimenti per quasi un mese. E Torino, che si era appena riscoperta città dell'auto, si ritrova a tirare il freno. Consumi fermi, cortili che si riempiono di auto invendute, altrove licenziano, qui ci sono le misure della cassa integrazione. Questa, vi ricordo, sulla Stampa di Torino, il primo piano della Stampa, un articolo che come dire, vale la pena di leggere per la storia, per il ruolo, ma anche per conoscere meglio i meccanismi con cui delle grandi aziende si trovano a fare i conti in queste settimane. Concludo con un articolo che invece prendo dalle cronache del Corriere della Sera. La Croazia, fine divieto alle case degli italiani. Ecco, via libera dal 1 febbraio 2009. I croati si attendono un boom. Dal 1991, da quando la Croazia si è resa indipendente dalla Jugoslavia, inglesi, tedeschi, austriaci hanno comprato tutto, dal villaggio turistico al casale ottocentesco in pietra. Gli italiani mai, forse non avrete fatto caso, o sì, insomma, ma qual è la ragione? La ragione sono i rancori anti-italiani che risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al fascismo, al maresciallo Tito, alle richieste di risarcimento degli esuli che nel 1946 furono costretti a lasciare Pola, Fiume e Zara. Quindi da febbraio si cambia e di spalla c'è un'intervista a uno scrittore croato che è Predrag Matvijević, 76 anni, ha vissuto per 14 anni a Roma. Insomma, lui saluta con soddisfazione questo cambiamento, ma dice attenzione, Zagabria ha deciso di trattare gli italiani come tutti gli altri europei, ma lo fa solo per garantirsi un futuro ingresso nell'UE e non potrebbe comportarsi diversamente. I nazionalisti croati, che hanno sempre osteggiato questa apertura verso Roma, temono che ora gli italiani verranno a ricomprarsi quello che hanno perduto dopo la guerra. Questa è la notizia che vi segnalo in conclusione, Croazia fine divieto per le case agli italiani. E siamo proprio arrivati alla fine, 7:54 minuti, un saluto da parte mia, da parte di Gigi Donelli, un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia e vi lasciamo agli aggiornamenti di GR24.